notizia. C'è stato un attacco questa mattina, colpi di armi automatiche contro il settimanale satirico francese Charlie Hebdo, quello, lo ricorderete, che pubblicò tra mille polemiche le vignette su Maometto. Le vittime da accertate al momento sono 11, sarebbero 5 i feriti, maggiori dettagli naturalmente tra un attimo. Le altre notizie: la disoccupazione ai nuovi massimi, al 13,4 novembre non è mai stata così alta, diminuisce anche il numero di occupati, ancora giù il prezzo del petrolio ed Europa in deflazione. Aperta un'inchiesta sulla morte di Pino Daniele, si ipotizza l'omicidio colposo, l'autopsia dopo i due funerali, il primo a Roma in corso adesso, il secondo a Napoli in piazza Plebiscito. Nuova udienza in tribunale oggi per l'uomo che fece 13 al Totocalcio nell'81, la battaglia giudiziaria col CONI non è ancora finita e intanto ha perso moglie, amici e lavoro, lo incontreremo, parleremo con lui. La Roma di nuovo a meno uno dalla Juventus, fermata dall'Inter, ma resta aperta la polemica sul gol fantasma dei giallorossi. Una buona giornata dunque da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, il numero di sms per intervenire in diretta è il 349-238-6666 e c'è anche la nostra pagina Facebook. Naturalmente iniziamo e torneremo a punteggiare l'intera trasmissione di aggiornamenti su quello che sta succedendo a Parigi, perché questa mattina, come si diceva, degli uomini armati hanno colpito il settimanale satirico Charlie Hebdo e le vittime sono molte. Gli aggiornamenti innanzitutto con Valentina Furlanetto. Valentina. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Nessun dubbio che l'attacco di oggi al settimanale Charlie Hebdo a Parigi sia stato un attentato terroristico, a dirlo il presidente francese François Hollande, che proprio poco fa è arrivato sul luogo dove ha sede la redazione. Lo ricordiamo, ci sono 11 morti, tra cui due poliziotti. La Francia è sotto shock, ha detto il presidente, sono stati diversi gli attentati sventati nelle scorse settimane in Francia. Così ha detto Hollande, che appunto è arrivato nella sede del giornale, dove questa mattina due uomini armati di Kalashnikov e un lanciarazzi, incappucciati e vestiti di nero, hanno fatto irruzione nella sede di questo giornale e hanno sparato. Polizia e gendarmi sono stati schierati davanti a scuole, edifici pubblici e redazioni dei giornali in Francia, perché le autorità francesi hanno già innalzato il livello d'allarme per il pericolo di nuovi attentati. Come dicevi anche tu, Charlie Hebdo divenne noto al pubblico internazionale nel 2012 con la scelta di pubblicare delle controverse vignette su Maometto, facendo adirare il mondo islamico, spingendo il consiglio francese del culto musulmano a chiedere il ritiro delle copie dalle edicole. E poi, come hai detto anche tu, non dimentichiamoci che oggi è uscito in Francia il libro di Houellebecq, Sottomissione, che immagina una Francia sottomessa all'Islam nel 2022, una Francia che rinuncia alle conquiste dell'Occidente, diritti delle donne, eccetera. Tra l'altro oggi su Twitter, l'indirizzo Twitter del giornale aveva pubblicato una vignetta invece su Abu Bakr al-Baghdadi, il leader dello Stato islamico, quindi insomma si indirizzano le indagini verso questo filone. Naturalmente non poteva essere diversamente. Io intanto ti ringrazio, Valentina Furlanetto, poi ci collegheremo nel corso della trasmissione anche con Parigi, ci collegheremo e cercheremo di collegarci col luogo dove sono avvenuti i fatti per capire che cosa succede, come procedono le indagini, qual è il punto. Come si diceva, Gigi Donelli ha parlato anche il presidente francese. Sì, è arrivato poco fa appunto nell'undicesimo arrondissement, ha annunciato tra l'altro per le 14, prima era le 13, poi alle 14 un gabinetto di crisi. Ovviamente la portata di questo attacco è davvero enorme, è enorme in una città capitale, in una città in cui comunque questo bersaglio era già chiaramente identificato da tempo. Forse possiamo sentire intanto un passaggio dell'intervento di Hollande. Je réunirai tout à l'heure à 14h à l'Elysée les ministres et les responsables qui sont directement. Réunirò alle 14 i ministri responsabili, dice appunto Hollande. Que nous devons assurer à tous les lieux où le même acte pourrait être renouvelé. Discuteremo della protezione che dobbiamo assicurare a tutti i luoghi in cui atti simili potrebbero essere scatenati. Il y a aussi des actions qui sont immédiatement lancées suite à l'aggression pour retrouver les auteurs de ces actes. Ovviamente dice sono lanciate immediatamente delle operazioni per trovare i responsabili di questo atto. Et traduits devant les juges et condamnés. Saranno catturati, trasferiti davanti ai giudici e condannati. La Francia dice sotto shock. terrorista. Un attentato terrorista, e su questo non c'è dubbio. Un giornale che aveva été plusieurs fois menacé. E in particolare per un giornale che era stato più volte minacciato. Il faut faire également bloc. In questo momento bisogna fare blocco, quadrato, diremmo noi. Nous savons réagir comme il convient. Dobbiamo saper reagire come conviene, con fermezza, ma anche nella tutela, nel rispetto dell'unità nazionale. E qui c'è una chiara evocazione alla grande comunità musulmana francese. J'aurai une fois encore à parler aux Français, car je l'avais dit, nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Tornerò a parlare ai francesi, siamo in un momento particolarmente difficile. Sapevamo dalle scorse settimane che appunto abbiamo avuto molti segnali che eravamo in un momento molto complesso e siamo sotto minaccia perché siamo un paese di libertà, dice Hollande. Conjurons les menaces et nous punirons les agresseurs. E infine ribadisce: nessuno può pensare che può agire in Francia in questa maniera senza essere, dice, senza essere catturato e colpendo lo spirito stesso della Repubblica, cioè un giornale. Allora, Gigi, nel frattempo apprendiamo dalle agenzie che gli uomini armati che hanno assaltato la sede di Charlie Hebdo, e lo testimoniano le immagini girate dal giornalista Martin Boudot, gridavano Allahu Akbar, ossia Allah è grande. Quindi se ci fossero stati ancora dei dubbi sulla matrice islamica di questo attentato, evidentemente queste immagini probabilmente li fugheranno. A livello generale, come già ci accennava la nostra Valentina Furlanetto, possiamo dire che Charlie Hebdo a tutti gli effetti era già nel mirino e fu tra l'altro vittima di un attacco che ne distrusse completamente la sede nel 2011. Sì, un bersaglio esplicito, ricordiamo, un bersaglio che oggi aveva un sistema di sicurezza che naturalmente col senno di poi è facile dirlo insufficiente, cioè una macchina di polizia, i poliziotti peraltro vittime appunto dell'attacco, quindi chi ha colpito lo ha fatto con una strategia militare, intervenendo, eliminando di fatto innanzitutto chi proteggeva il luogo. Ecco, in un contesto, non dimentichiamolo, in cui che è diverso rispetto a quel 2012, del 2012, soprattutto perché c'è di mezzo le operazioni militari aeree della Francia e non solo, naturalmente, contro l'ISIS. Ecco, questo direi che potrà essere probabilmente la chiave di lettura di questo attacco che, come abbiamo appreso, ha caratteristica di natura assolutamente militare. Grazie, io ti ringrazio Gigi Donelli per questi aggiornamenti, per questi chiarimenti e approfondimenti. Noi naturalmente torneremo nel corso di Effetto Giorno a parlare di questa vicenda. Come vi dicevo, stiamo cercando di collegarci col luogo dove è avvenuto questo attacco terroristico per capire anche qual è la situazione. Nel frattempo passiamo alle altre notizie e innanzitutto ai dati sulla disoccupazione diffusi questa mattina col nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Nuovi record negativi per gli indicatori Istat relativi al mondo del lavoro. Il mese sotto osservazione è novembre 2014. Il tasso di disoccupazione raggiunge allora quota 13,4%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto ad ottobre. Si tratta del massimo storico, il valore più alto sia dall'inizio delle serie mensili, gennaio 2004, sia delle trimestrali, ovvero dal 77. I disoccupati a novembre sono 3.457.000, più 48.000 su ottobre, più 264.000 su base anno. In questo scenario, Simone, la categoria più penalizzata è quella dei giovani. La fascia 15-24 anni arriva in termini di disoccupazione al 43,9%, in rialzo di 0,6 punti rispetto al mese precedente, 63.000 in più nell'ultimo anno. Risultano in cerca di un lavoro ben 729.000 under 25. Tra i primi commenti, quello del governo. Valutazione comune per il Presidente del Consiglio Renzi e i ministri dell'Economia e del Lavoro Padoan e Poletti, che spiegano solo nei prossimi mesi si potranno vedere gli effetti delle misure della legge di stabilità e della riforma del mercato del lavoro. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Intanto ancora un aggiornamento sull'attacco che è avvenuto a Parigi alla sede del settimanale satirico Charlie Hebdo. Vi ricordiamo ancora, come vi abbiamo detto nei titoli, vi abbiamo raccontato poco fa, che le vittime sono 11, gravemente ferito sarebbe rimasto anche Stéphane Charbonnier, detto Charb, che è un vignettista satirico ed è anche, almeno da quel che ne sappiamo fino a poco fa, almeno era il direttore del settimanale satirico. Continueremo ad aggiornarvi e a parlarvi di questa situazione. A proposito invece di dati economici, abbiamo visto quelli sulla disoccupazione, mentre la tensione resta addensata intorno alle vicende della Grecia. Oggi i titoli di Stato greci a 10 anni sono tornati a superare il 10% di rendimento, mentre ne discute di Grecia anche la Banca Centrale Europea. Abbiamo in studio con noi Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Vittorio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, guarda, innanzitutto il dato di oggi è appunto questo, che i rendimenti sono saliti sopra, dei decennali greci, sopra il 10%. Allora, ricordiamo che arrivarono fino al 32% nel picco della crisi, ma il 10% ha un significato molto chiaro per i mercati, cioè che la Grecia non può andare sul mercato per vendere bond, perché ha un prezzo di questo genere naturalmente non è più conveniente, non avrebbe la possibilità di ripagare interessi di questa natura in un momento in cui gli interessi, come vediamo, sono talmente bassi, in alcuni casi addirittura negativi. Quindi un 10% di spread vuol dire che Atene in questo momento non è in grado di andare sul mercato. Quindi la partita con l'Europa si riapre, è una partita a scacchi con i tedeschi, che cercano in ogni modo di condizionare la richiesta del leader Alexis Tsipras di Syriza, che è dato in vantaggio di una ristrutturazione del debito, promettendo, probabilmente con trattative segrete in corso, un allungamento del debito o una riduzione degli interessi, senza intaccare il principio che il debito va pagato, perché un paese che non pagasse anche un solo euro di debito vuol dire aprire un effetto domino su altri paesi dell'Eurozona e poi bloccare il quantitative easing, perché questo sarebbe naturalmente un pretesto in più per Jens Weidmann per dire non si possono acquistare i bond dei periferici. Oggi la BCE sta discutendo della situazione delle banche greche, perché naturalmente vivono solo attraverso la liquidità concessa dalla Banca Centrale Europea, e quindi nel momento in cui ci fosse, come è stato a dicembre, primi segnali di riduzione delle liquidità delle banche greche, perché si sta andando a prendere i soldi, come succede spesso in queste occasioni, per comunque averli in casa e non avere poi il problema di magari vedersi bancomat chiusi, questo ed è un segnale preoccupante. Grazie, grazie al nostro Vittorio Darold per questi aggiornamenti per quanto riguarda la Grecia. E altri aggiornamenti invece abbiamo sulla vicenda di Charlie Hebdo, il settimanale satirico francese vittima questa mattina di un attacco probabilmente di matrice islamista che ha fatto 11 vittime e 4 feriti gravissimi, come ha riferito poco fa il presidente francese François Hollande. Iniziano ad arrivare le prime reazioni internazionali, c'è quella innanzitutto del premier britannico David Cameron. Gli omicidi a Parigi sono rivoltanti, dice Cameron, e siamo vicini alla Francia nella sua lotta al terrorismo. E poi arriva anche un messaggio di solidarietà da parte del ministro degli esteri italiano Gentiloni. Nel frattempo il governo francese ha annunciato di avere innalzato al massimo livello di allerta per la sicurezza la regione parigina a seguito naturalmente di questo attacco. E questo per quanto riguarda appunto la vicenda di Parigi e la vicenda di Charlie Hebdo. Abbiamo parlato della Grecia, abbiamo parlato della disoccupazione italiana, ma al centro della scena economica continua ad esserci anche il prezzo del greggio. Oggi il Brent, quello quotato al Mare del Nord, ha sfondato a ribasso una soglia importante. Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, ha sfondato a ribasso la soglia dei $50, in questo momento viaggia leggermente al di sopra, siamo a 50,83, ma come dicono i colleghi delle agenzie si è appoggiato anche a questo prezzo, 49,66, non accadeva dal 2009, quindi questo è un tema sicuramente molto importante. Questa soglia era già stata violata al ribasso dal WTI, dal greggio di riferimento americano, 2 giorni fa, questa mattina il greggio statunitense ha toccato addirittura i $46,85, per cui abbiamo un trend che ormai sembra assolutamente inarrestabile. Se proprio dobbiamo parlare di record, questa mattina l'ennesimo lo ha toccato anche l'euro, il nuovo minimo degli ultimi 9 anni. In questo momento il rapporto di cambio è attestato a 1,1831, ma la moneta unica europea sul biglietto verde ha toccato anche 1,1815, anche questa una tendenza che appare non arrestabile. La borsa europea è positiva, quindi il rimbalzo che era già stato tentato anche ieri mattina Ucraina oggi appare più convincente, abbiamo un progresso dell'1,15% in questo momento su Milano, un po' più consistente su Parigi, poco al di sopra del punto percentuale Francoforte, bene anche Londra, recuperano un po' i titoli del settore bancario, la moda un po' tutti, naturalmente i titoli che hanno perso tanto negli ultimi giorni, rimangono deboli quelli in qualche maniera legati al petrolio e all'energia. Direi, Simone, che per ora è tutto. Grazie, grazie alla nostra Deborah Rosciani per questi aggiornamenti. Veniamo alla morte di Pino Daniele, per la quale è stata aperta un'inchiesta, si ipotizza l'omicidio colposo ed è stata anche disposta l'autopsia, che ci sarà però dopo i funerali che si svolgeranno sia a Roma e poi anche a Napoli. È proprio a Roma che c'è la nostra Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori. Celebrazione conclusa poco prima delle 13. In questi istanti il feretro di Pino Daniele sta abbandonando il vialetto antistante il santuario del Divino Amore. Tanta gente, però forse non la folla che ci si aspettava, probabilmente la decisione di fare il doppio funerale ha distribuito la folla, molto composta la gente è arrivata questa mattina, fino a che poi il feretro non è uscito dalla chiesa. A quel punto un lunghissimo applauso sulle note di Napolè e tanti volti, tantissimi volti rigati dalle lacrime. A celebrare padre Remo, un amico di famiglia che ha pronunciato un'omelia molto diretta: questa vita è solo un passaggio, Pino è passato, toccherà poi a ciascuno di noi. E poi un appello ai figli dell'artista a restare uniti in questo momento, soprattutto come nel momento in cui, e lo ricordavi anche tu, è stata aperta un'indagine dalla Procura di Roma per omicidio colposo, per il momento a carico di ignoti. Ieri gli inquirenti hanno ascoltato i parenti di Pino Daniele, la procura vuole accertare che la decisione di andare a Roma con mezzi propri dalla Maremma sia arrivata dallo stesso Pino Daniele. Per il momento da Roma è tutto. Grazie alla nostra Valeria De Rosa. Adesso sentiremo che cosa succede sulle strade e poi naturalmente torneremo ad aggiornarvi, a darvi notizie quantomeno su quello che è successo a Parigi, dove appunto c'è stato un attentato alla sede del settimanale satirico Charlie Hebdo con 11 vittime. Anzi, ci collegheremo proprio con una collega giornalista che si trova sul posto. Traffico prima. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. C'è stato un attacco quasi certamente di matrice islamista contro la sede del settimanale satirico Charlie Hebdo a Parigi. Al momento le vittime accertate sono 11, sono 4 i feriti gravissimi, tra cui anche il direttore del settimanale Charlie Hebdo, lo ricordiamo, era il settimanale che aveva pubblicato tra grandi polemiche nel 2012 le vignette su Maometto, naturalmente molto molto molto contestate. Tra un attimo andremo a collegarci sul luogo, con il luogo dove sono avvenuti i fatti, dove a quanto pare appunto degli uomini col Kalashnikov sono entrati gridando tra l'altro Allahu Akbar, ossia Allah è grande. Le altre notizie: la disoccupazione che ha i nuovi massimi è al 13,4% a novembre, non è mai stata così alta e diminuisce il numero di occupati. Ancora giù intanto il prezzo del petrolio con il Brent che ha sfondato a ribasso la soglia ai $50 al barile ed Europa in deflazione. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Pino Daniele. Si ipotizza l'omicidio colposo, l'autopsia dopo i due funerali, il primo a Roma in corso adesso, il secondo a Napoli in piazza Plebiscito. Un'ultima notizia prima di ritornare a Parigi: Silvio Berlusconi tramite i suoi legali, è stata battuta adesso dalle agenzie, ha depositato al Tribunale di Sorveglianza di Milano la richiesta di liberazione anticipata nell'ambito dell'affidamento in prova ai servizi sociali di un anno concesso lo scorso aprile in seguito alla condanna definitiva per il caso Mediaset. Siamo in grado di collegarci con una giornalista che si chiama Chiara Zappalai, che si trova nella zona dove sono avvenuti i fatti, vicino alla sede di Charlie Hebdo, appunto, il settimanale satirico francese vittima di un attacco. Chiara, io immagino che tu ti possa avvicinare poco, però vorrei capire da te qual è la situazione. Sì, buongiorno, sono a 200 metri circa dal luogo in cui è avvenuta la sparatoria, quindi di fronte, davanti alla sede parigina di Charlie Hebdo. Massima allerta in tutta la regione parigina dopo che appunto due uomini sono entrati nella sede di Charlie Hebdo e hanno ucciso 10 persone e ne hanno ferite parecchi altri. A quanto pare i due uomini sono sbagliati in un primo momento, sono entrati al numero accanto e poi si sono introdotti nella sede di Charlie Hebdo e hanno fatto fuoco con dei Kalashnikov. Alcuni dei giornalisti della rivista satirica si trovavano sul tetto della sede e hanno filmato, hanno fatto foto e quindi hanno documentato in diretta l'evento. Ancora non si hanno altre notizie, si sa solamente che Hollande è in arrivo sul luogo, sì, e che ha indetto una riunione per le 14 con i suoi ministri. Sì, di questo eravamo al corrente, in realtà è arrivato pochi istanti fa, ma capisco che tu essendo un po'... essendoci un po' di confusione, tu fatichi naturalmente ad esserci direttamente. La situazione al momento è ancora confusa, chiara da quello che riesci a vedere? È molto confusa, i giornalisti sono bloccati, in questo momento c'è una diffusione di notizie da parte della polizia e quindi mi avvicino per capire quali sono le novità. Se possiamo risentirci, sì, ci risentiamo più tardi, anche più di due minuti, così hai il tempo di sentire che cosa dice la polizia e poi ci risentiremo. Si diceva che Charlie Hebdo questa settimana è uscito con una copertina dedicata al libro al nuovo libro di Houellebecq, che tante polemiche sta suscitando, libro di Houellebecq che è appunto in pubblicazione da oggi. La nostra Alessandra Tedesco ci spiega perché almeno parzialmente le cose potrebbero essere correlate. Il libro di Michel Houellebecq, che esce oggi in Francia, aveva già suscitato polemiche nelle scorse settimane, perché appunto si conosceva già l'argomento di cui trattava. Si tratta di un romanzo, si intitola Sottomissione, uscirà in Italia il 15 gennaio, in cui Houellebecq immagina una Francia che sia governata da un presidente musulmano. Una Francia del futuro, infatti il libro si apre con l'elezione presidenziale del 2020. Questa elezione viene appunto vinta dalla Fratellanza Musulmana, che si allea con la sinistra, e l'obiettivo di questo nuovo presidente musulmano è quello di concentrare l'attenzione sull'educazione dei bambini, l'educazione islamica dei bambini e delle famiglie. Che cosa succede a questo punto nella Francia immaginata da Houellebecq? Che sostanzialmente le donne non lavorano più, tornano a casa, viene imposta quasi una sharia. Ma il narratore, il protagonista del romanzo di Houellebecq, inizialmente stupito da questo cambiamento, finisce per convertirsi all'islamismo e apprezzare gli aspetti anche più aspri di questo nuovo governo islamico, nel senso che percepisce la sottomissione. Islam vuol dire appunto sottomissione, una forma di liberazione da quella libertà che tanto era propagandata dalla cultura occidentale, che di fatto finiva per essere un peso, una responsabilità sulle spalle delle persone. Questo libro ha suscitato naturalmente molte polemiche, come la maggior parte dei libri di Houellebecq in Francia, ma anche nel resto dell'Europa e anche in Italia, dove, lo ricordiamo, uscirà a metà gennaio. E ringraziamo la nostra Alessandra Tedesco anche per averci raccontato che cosa c'è in questo libro di Houellebecq, che tante polemiche sta suscitando, anche naturalmente per quanto riguarda ovviamente i rapporti con l'Islam. Allora, si è detto poco fa che sono state levate le misure di sicurezza a Parigi in seguito a questo attacco terroristico a Parigi e nell'area di Parigi. Ebbene, il governo francese ha precisato poco fa che mezzi di comunicazione, grandi magazzini, luoghi di culto e di trasporto sono stati messi sotto misure di protezione rafforzata. Come vi abbiamo detto e come ci ha raccontato poco fa Chiara Zappalà in diretta a Parigi, è in corso una conferenza stampa della polizia polizia, dove probabilmente sarà dato anche qualche dettaglio su quello che effettivamente è avvenuto e probabilmente anche sulle ricerche dei due attentatori che, lo ripetiamo, questa mattina sono entrati nella sede del settimanale satirico Charlie Hebdo a Parigi e hanno ucciso 11 persone. Torneremo a collegarci con Chiara Zappalà per capire che cosa ha detto la polizia. Ma naturalmente non dimentichiamo le altre notizie e vogliamo tornare su una vicenda che tanto ha fatto discutere in questi ultimi giorni, ossia il crollo parziale, almeno di una parte, di un viadotto sull'Agrigento Palermo. Era stato inaugurato prima di Natale, è crollato sostanzialmente, una parte ha ceduto sostanzialmente a Capodanno, tra grandissime polemiche, tweet del Presidente del Consiglio e promesse naturalmente che tutto questo non avverrà mai più. Oggi è andato a verificare com'era la situazione il Presidente dell'ANAS, Pietro Ciucci, che saluto, buongiorno, che è ancora là immagino. Buongiorno Ciucci. Sono ancora qui, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Avete qualche dettaglio dell'inchiesta che si sta portando avanti su tutto questo? Cioè che cosa è successo esattamente? Ma guardi, io sono venuto qui per vedere direttamente con i miei occhi, con i miei diretti collaboratori, la situazione e il danno registrato. Anche per fare chiarezza, cioè che cosa è successo e quando e quali sono stati i rischi determinati da questo fatto. Allora, cosa è successo? Innanzitutto non è crollato nessun viadotto, a differenza di quanto è stato spesso titolato dai diversi giornali. Abbiamo avuto un anomalo abbassamento di un rilevato che è il tratto di accesso al viadotto, un rilevato particolarmente impegnativo, alto oltre 7 metri. Quando è successo e cosa abbiamo fatto? Noi già il 30 dicembre, quindi molto prima che venisse diffusa la notizia, ripresa la notizia dai principali fonti di informazione, il 30 dicembre, avendo visto i primi segnali di questo avvallamento anomalo, di questo fatto anomalo, abbiamo deciso di chiudere la strada che avevamo aperto soltanto 7 giorni prima, ben sapendo che questo non avrebbe contribuito alla nostra immagine, per dir così, sì, ma mettendo in prima linea la sicurezza. Sì. Quindi nessun tipo di rischio è stato mai corso dai nostri e questo è un punto essenziale. L'altro punto che io vorrei capire è se dipende da un difetto di costruzione o c'è un problema nel terreno che evidentemente non è stato rilevato. No, guardi, ovviamente questo noi potremmo dirlo al termine di questa attività di indagine che è stata avviata. Attualmente il cantiere è sotto sequestro della Procura, quindi per poter avere una nostra valutazione definitiva abbiamo bisogno di fare dei sondaggi e soltanto che sarà possibile fare solo dopo il dissequestro. Nel frattempo daremo tutta la collaborazione alla Procura. Da quello che noi abbiamo potuto vedere anche oggi visivamente in questo sopralluogo, si è verificato un movimento verticale di questo viadotto, un abbassamento e un cedimento del piano di posa. Questo detto in maniera molto, molto semplice, evidentemente i tecnici lo potrebbero dire in maniera molto più articolata. Ovviamente è qualcosa che non doveva verificarsi, non doveva verificarsi né dopo 7 giorni né dopo 7 anni, quindi c'è stato un errore e noi non lo nascondiamo, non lo neghiamo, un errore che può essere in fase di esecuzione o in fase di progettazione, questo ci dirà qualcosa di più, i sondaggi, le verifiche. Quindi la sostanza mi scusi, cioè che non siamo ancora in grado di dirlo. Quali sono le cause, le motivazioni esatte? No, purtroppo siamo davanti a questo errore, ai danni determinati. La gestione in base alle nostre procedure in via preventiva e cautelativa ci hanno consentito di evitare che all'errore conseguissero degli effetti negativi, dei rischi dei nostri utenti, e questo è un aspetto importante. Ovviamente individueremo l'errore, i responsabili e il tutto verrà ripristinato, non certo a danno e a costo della finanza pubblica, quindi non rimarrà un danno per i cittadini neanche da un punto di vista economico. L'impresa che è responsabile in ogni caso dovrà ripristinare il lavoro nel tempo più rapido possibile, non appena ovviamente il cantiere sarà dissequestrato. Io credo che per primavera il tratto sarà riaperto assolutamente. Grazie, grazie a Pietro Succi, presidente dell'ANAS, per essere stato con noi. Noi ci fermiamo un attimo, c'è una pausa, c'è come sempre l'aggiornamento dai mercati e poi naturalmente torneremo ancora a Parigi per aggiornarvi su quello che è successo con l'attacco al settimanale satirico Charlie Hebdo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È stato un attacco a colpi di armi automatiche contro il settimanale satirico francese Charlie Hebdo. Le vittime sono almeno 10, dice la procura. Le ultime notizie per quanto riguarda questa vicenda, che stanno continuando a battere le agenzie, innanzitutto ci sono le dichiarazioni del Presidente del Consiglio che dice la violenza perderà sempre. Sempre interessante il fatto che davanti al luogo della strage sono morte 11 persone, lo ricordiamo, sia comparso un imam, l'imam di Drancy, Hassan Chalghoumi, che dice gli uomini che hanno fatto questo sono l'impersonificazione del male. Si racconta anche tra l'altro di giornalisti di Charlie Hebdo in fuga sui tetti di Parigi. Ci torniamo tra un attimo. Le altre notizie ci parlano di una disoccupazione ai nuovi massimi, al 13,4% in novembre, mai stata così alta, mentre diminuisce il numero di occupati. Intanto scende ancora il prezzo del petrolio e l'Europa entra in deflazione, dice Eurostat. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Pino Daniele, si ipotizza l'omicidio colposo, l'autopsia dopo i due funerali, il primo a Roma in corso adesso, il secondo a Napoli, in piazza del Plebiscito. Il calcio, con la Roma di nuovo a meno un punto dalla Juventus, fermata dall'Inter, ma resta aperta la polemica sul gol fantasma dei giallorossi, ampio dibattito naturalmente anche in tutti i convocati a partire dalle 14. Intanto i mercati. Borse in diretta. Ed è una giornata positiva, FTSE MIB più 0,64, FTSE All Share più 0,6, mentre vanno meglio le altre piazze finanziarie europee. Parigi che non sembra risentire di quello che è successo, appunto, un più 1,06%, Francoforte più 1,04%, Londra più 1,21%. Isabella Tasso, Radio Coriel Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, a cosa dobbiamo questi rialzi dei mercati oggi? La seduta è ancora molto altalenante, questo per tutte le borse europee. Piazza Affari ha accelerato nella seconda parte della mattinata dopo il dato sull'inflazione della zona euro che è scesa oltre le attese del mercato. La stima flash di Eurostat relativa a dicembre ha infatti mostrato un tasso tendenziale in calo dello 0,2%, un inizio di deflazione che rafforza la prospettiva di una mossa espansiva da parte della Banca Centrale Europea in occasione del prossimo consiglio sui tassi del 22 di gennaio. Così gli indici che erano in calo hanno accelerato. Per quanto riguarda i singoli titoli, Buzzi Unicem più 2,77, Ferragamo più 2,7, Settim Microelectronics più 2,5, Luxottica più 2,5, Fiat Chrysler più 2,39, quindi molti industriali, anche Finmeccanica guadagna l'1,63%, recupera Eni che guadagna l'1,62%, in fondo a listino Terna meno 0,78%, Prisbian mezzo punto percentuale di calo, così come Intesa San Paolo. Grazie Isabella anche per oggi e buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, dunque ricominciamo ancora una volta e anche in questa parte della trasmissione parlando di quello che è successo a Parigi. Vi ricordiamo la notizia, per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, degli uomini armati sono entrati nella sede di Charlie Hebdo, che è un settimanale satirico francese, il settimanale satirico che ricorderete al centro delle polemiche per aver pubblicato 2 anni fa delle vignette satiriche su Maometto, che fu vittima tra l'altro di un altro attentato, questa volta avvenuto di notte, fu fatta esplodere la sede letteralmente con una bomba. Ebbene, questi due uomini sono entrati nella sede di Charlie Hebdo, hanno iniziato a sparare e le vittime al momento sono 11, secondo altre fonti sarebbero 12, sicuramente i feriti gravi sono 14, è stata elevata l'allerta antiterrorismo in tutta l'area della Francia e messi sotto controllo ovviamente sedi dei giornali, grandi magazzini e tutti i luoghi pubblici. Da quel che si è appreso fino adesso ci sarebbero stati degli uomini appunto vestiti di nero e tra l'altro vi faremo sentire l'audio che avrebbero urlato Allahu Akbar, ossia Allah è grande. Sentiamo se riusciamo a percepirlo da quest'audio. Allah! Pensivo. Pensivo. Avez-vous encore? Mais non, Edouard, tu peux. Fais gaffe. Bougez pas. Il y a un trou. Ouais. Bougez surtout pas. On l'a déjà appliqué. E l'audio che avete sentito arriva da immagini girate da un giornalista, Martin Boudot, che sono state trasmesse da France Télévisions. Come avete sentito, vi abbiamo detto, perché insomma gli audio, le informazioni stanno arrivando frammentarie, che non sapevamo si sarebbe sentito, invece si sente distintamente. Gridano Allahu Akbar, ossia Allah è grande. Come avete sentito poco fa, abbiamo lasciato Chiara Zappalà in diretta dal luogo dove è avvenuto, da dove è avvenuta questa strage, che si è allontanata perché c'era la polizia che stava per fare un punto. Dunque torniamo a collegarci con lei per capire che cosa è emerso, se era veramente un punto della polizia o se era altro, o se era qualcuno che stava dando altre notizie. Chiara, eccoci. Sì, sono ancora qui a 200 metri dalla sede di Charlie Hebdo. Poco fa effettivamente il presidente della regione parigina, che è intervenuto e che ha parlato con i giornalisti, ha parlato di 12 morti in totale, a quanto pare 10 sono tra giornalisti e personale della rivista francese e 2 poliziotti. Questo quanto detto dal presidente della regione. Che cosa? Essere intervenuti, tra gli altri l'imam di Drancy, che è in banlieue, nella periferia parigina, un luogo simbolo perché era il punto di partenza dei deportati ebrei, e quindi ancora oggi la comunità musulmana ha un ruolo importante nel dialogo con le altre confessioni, e ha detto che il profeta Maometto mai ha istigato la violenza, e ha parlato di un atto deplorevole da parte di coloro che hanno sparato all'interno della redazione di Charlie Hebdo. Allora, io intanto ti saluto, Chiara Zappalà, e magari torneremo da te più avanti, e vedremo appunto se collegarci per sentire anche altre reazioni. Intanto vi voglio aggiornare su altre notizie che stanno arrivando. A parte il presidente francese François Hollande, che dice è un attentato alla nostra libertà. Come si diceva e come vi accennavamo poco fa, Stéphane Charbonnier, che firma Charb le sue vignette, che il direttore di Charlie Hebdo, è tra i feriti gravi dell'attacco al settimanale satirico, è quello che scrivono i media francesi, tra cui Le Monde e Le Figaro. Proprio a proposito dei mezzi di informazione francesi, Le Figaro ha deciso di bloccare tutti gli accessi alla sua sede, che si trova a Parigi, tra l'altro non lontano da quella di Charlie Hebdo, proprio per motivi di sicurezza. È quello che ha riferito uno dei suoi redattori, scrivendolo proprio su Twitter. Iniziano ad arrivare varie reazioni, naturalmente ci sono, vi abbiamo riferito poco fa, quella del premier britannico Cameron, che dice che sono omicidi rivoltanti e siamo vicini alla Francia nella sua lotta contro il terrorismo, ma naturalmente iniziano ad arrivare, e sono arrivate subito, anche le reazioni italiane. Per questo ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, no, mi dicono che abbiamo un problema, non abbiamo il collegamento con Elisabetta Fiorito, e quindi adesso cerchiamo di ripristinarlo per sentire naturalmente quali sono queste prime reazioni che arrivano su quanto è avvenuto in Francia. Abbiamo dunque Elisabetta Fiorito. Elisabetta, per le reazioni, eccoci, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, subito è intervenuto il premier Matteo Renzi, dice orrore e sgomento per la strage di Parigi, vicinanza totale a François Hollande, la violenza perderà sempre contro la libertà e la democrazia. E c'è stato anche l'intervento del ministro degli esteri Paolo Gentiloni su Twitter: infame assalto, l'Italia è vicina alle famiglie famiglie delle vittime e al popolo e al governo francesi nella lotta al terrore. Più polemici invece i tweet del centrodestra, perché Mario Borghezio, europarlamentare della Lega Nord, dice che praticamente è iniziata la guerra dell'Islam contro l'Occidente e quindi si tratta di un'intimidazione pesantissima alla libertà di stampa. Inoltre Daniela Santanchè, falco di Forza Italia, dice tolleranza zero contro il terrorismo e contro il fondamentalismo islamico. Queste insomma le prime reazioni, non c'è ancora una reazione 5 Stelle, ma e anche dei leader, come avete sentito, a parte il Premier e il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. A te Simone. Grazie intanto alla nostra Elisabetta Fiorito. Qualcuno ci scrive via SMS al 349-238-6666 ricordando le marce anti-Islam in Germania che ci sono state ieri, collegando tutto questo evidentemente a quello che è successo a Parigi, a queste nuove tensioni che ci sono, come ricorderà Marco, ne abbiamo parlato ieri, proprio in effetto giorno di queste marce anti-Islam. Ancora informazioni che arrivano che vengono diffuse dalle agenzie, i responsabili della strage compiuta oggi appunto nella sede del settimanale satirico francese avrebbero detto: abbiamo vendicato il profeta Maometto. Questa la notizia che viene pubblicata e questa è l'ultima notizia. No, scusate, c'è un aggiornamento importante che arriva dalla procura. Le vittime, come abbiamo detto nei titoli fino adesso, risultavano essere 11. Ebbene, il bilancio delle vittime invece è salito a 12 dell'attacco avvenuto alle 11.30. Saluto Filippo Bubbico, vice ministro all'interno, buongiorno e buongiorno. Benvenuto, bentornato buongiorno. Ai nostri microfoni in una giornata dura, difficile, dolorosa soprattutto per i francesi, ma che ovviamente fa sollevare preoccupazioni anche per quanto ci riguarda e un po' per tutta l'Europa e il mondo occidentale. Bubbico, come valuta dal punto di vista appunto di vice ministro dell'interno quello che è successo a Parigi? Con grande preoccupazione, perché come si temeva è accaduto quello che appunto avremmo tanto voluto non accadesse mai. Questo deve significare alzare ancora di più il livello di allerta, ma soprattutto utilizzare tutti gli strumenti per monitorare i passaggi nei nostri aeroporti. Io penso che la proposta che noi abbiamo avanzato perché possa essere applicato un sistema di controllo dei viaggiatori in ingresso e in uscita venga reso disponibile nel più breve tempo possibile. Il Parlamento europeo deve rivedere la propria decisione, perché esiste sicuramente un problema di tutela della privacy, ma esiste innanzitutto un problema di tutela della sicurezza dei nostri paesi e dei nostri cittadini. Ecco, allora, questo è un punto essenziale, Vice Ministro. Le vorrei chiedere questo. C'è un'ipotesi, lei ci diceva poco fa che probabilmente andrà innalzato il livello di allerta, immagino la decisione verrà presa nelle prossime ore. Innanzitutto, se ci conferma questo. Beh, il nostro sistema è già abbastanza allertato, i controlli vengono effettuati con grande attenzione, ma ripeto... Mi scusi Bubbico, intendevo un innalzamento formale del livello di allerta. Ma guardi, è importante diciamo confermare l'innalzamento sostanziale, perché da tempo che il ministro Alfano, il governo nel suo complesso segnala questo pericolo. E le nostre forze di polizia, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, le nostre strutture, i nostri servizi sono già fortemente impegnati, ma ovviamente tutto questo non può essere sufficiente per garantirci l'assoluta tranquillità, perché è imprevedibile, come in questo caso, nel caso francese abbiamo verificato, può sempre accadere. Per questo è necessario utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per leggere i movimenti dei combattenti stranieri, i movimenti dei soggetti che presentano nel loro girovagare in Europa delle anomalie tanto da allertare i nostri sistemi. Un'ultima domanda, Vice Ministro, e riguarda invece gli eventuali obiettivi francesi. Si prevede o immagina che si dovranno innalzare i livelli di allerta per quanto riguarda gli obiettivi francesi, vista la situazione? Mi riferisco naturalmente ad ambasciate, a personalità di riferimento. Prego. Beh, gli obiettivi sensibili sono tutti sotto stretta sorveglianza. Nello specifico, mi pare che la questione non riguardi la Francia in maniera specifica in quanto paese. Credo che questa azione abbia voluto segnalare da una parte la potenza di questi fanatici e di questi terroristi, perché c'è un mix, i registi del terrorismo utilizzano poi il fanatismo e quindi si vuole vendicare, come è stato detto, tutelare la figura del loro profeta, credo che il fatto che si sia verificato in Francia sia del tutto accidentale, non è un problema che riguardi la Francia, è un problema che riguarda l'Europa, che riguarda l'Occidente. La ringrazio, grazie anche per la sua disponibilità al Vice Ministro all'Interno Filippo Bubbico. Due aggiornamenti prima di sentire che cosa succede sulle strade. Oggi in via eccezionale non ci sarà America 24 di Mario Platero, ma continueremo ad aggiornarvi su questo terribile attacco terroristico alla sede di Charlie Hebdo, settimanale satirico francese. Le ultime due notizie appena arrivate sono che forse non sappiamo se è la dodicesima a questo punto o la tredicesima vittima, perché dai conti dobbiamo cercarlo di capire, è morto anche il direttore e vignettista Stéphane Charbonnier, uno dei disegnatori e anche uno dei disegnatori più importanti, Cabu. Altra notizia che riguarda invece le indagini e la ricerca degli attentatori: l'auto con cui i responsabili dell'attacco sono fuggiti è stata ritrovata per strada nel 19° arrondissement di Parigi, estremità nord-est della città. Questo è quello che riferisce il sito di Le Parisienne. Secondo altri media online, gli uomini in fuga avrebbero assalito un altro automobilista in quell'area e quindi forse si sarebbero impossessati di un'altra macchina per poi fuggire con quell'altra macchina a traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E allora questo è l'audio che siamo tornati a farvi sentire, che è appunto un audio che colpisce molto, è l'audio appunto dell'assalto a Charlie Hebdo, settimanale satirico francese, girate dal giornalista Martin Boudot, trasmesse da France Télévisions. E come sentite, si sentono nitidamente gridare Allah u Akbar, ossia Allah è grande, dando pochi dubbi sulla matrice islamista dell'attacco. Abbiamo in studio con noi Gigi Donelli, il nostro Gigi Donelli. Gigi, prego. Sì, si sente effettivamente questo grido, ormai diventato ben noto. Si sente all'inizio il giornalista che riprende e dice: stanno uscendo. Ecco, la cosa impressionante in questi minuti, stanno emergendo davvero una quantità di video, che una sorta di collage video di questi momenti drammatici. In questo specifico, appunto, stanno uscendo, abbassatevi, l'invito naturalmente ai colleghi che sono su un cornicione al quarto piano di un palazzo strapiombante. No, sullo stesso palazzo, strapiombante sulla strada. E dicevo, in questi minuti si stanno accumulando le immagini. Poco fa è stato diramato anche un altro video in cui si vedono due uomini completamente vestiti di nero, diciamo una divisa ISIS per intenderci, anche se naturalmente è una formazione discutibile sull'origine, ma lo stile sicuramente, con un'azione di tipo militare, che intervengono sulla strada e uccidono a sangue freddo un poliziotto a terra, un poliziotto che era già ferito. Si fermano, tornano indietro e lo colpiscono da circa 30 centimetri per finirlo. Ecco, questo è il quadro delle immagini. E naturalmente, Gigi, ci sono anche altre testimonianze, no? Sì, si stanno accumulando, forse siamo in grado di cominciare anche a condividere alcune, se Filippo Origi in regia inizia a mandarcele. On a entendu une très grosse fusillade sur à la fin là-bas. Abbiamo sentito una sparatoria molto intensa laggiù, dice questo testimone. Abbiamo visto appunto delle silhouette, dei profili neri vestiti di nero. Un altro testimone che dice sono stati minuti che ci sono parsi molto lunghi. Due persone, anche in questo caso cagoulé, quindi col passamontagna. Ecco, su questo punto si sta formando anche un quadro. Non so se abbiamo qualcos'altro. Prego. Travaillant pour Charlie Hebdo qui sont décédés, ainsi que deux fonctionnaires de police. Ecco, qui sta spiegando il bilancio. Beaucoup de rumeurs, vous nous confirmez qu'ils avaient des Kalachnikov. Eccoci. C'était des armes de type Kalachnikov de la guerre, della prima di tipo Kalashnikov, sicuramente armi da guerra, conferma questo funzionario di polizia. Donner une idée de leur motivation. Motivazioni, interroga il collega. È troppo presto, dice, per sapere che cosa sia accaduto all'interno. Ecco, sicuramente alcuni sopravvissuti sono stati presi in carico dalla nostra cellula psicologica che li sta interrogando. Questo il quadro per il momento delle testimonianze. Altre informazioni che iniziano ad arrivare. Allora, innanzitutto che lo Stato islamico, il cosiddetto califfato, aveva espressamente, in un video pubblicato il 19 novembre, fatto appello ai lupi solitari, i cosiddetti lupi solitari, che sono questi terroristi appunto in grado colpire senza un'organizzazione particolare, a colpire proprio la Francia in risposta ai raid in Siria ed in Iraq. Quindi non una minaccia specifica per Charlie Hebdo, ma evidentemente una minaccia per la Francia. Altre minacce alla Francia sono arrivate da Al-Qaeda per l'offensiva in Mali. Intanto continua ad aggiornarsi non tanto il numero delle vittime, che per il momento è fermo a 12, quanto iniziano ad arrivare i nomi. Come vi abbiamo detto poco fa, direttore di Charlie Hebdo ha perso la vita in questo attacco. Charb, che era lo pseudonimo o l'abbreviativo per Charbonnier, che era il direttore e anche un vignettista, e anche un celebre vignettista, Georges Wolinski, molto famoso anche in Italia, è morto, così come il suo collega T-News. Allora, siamo ancora in grado di collegarci con Chiara Zappalà, che si trova sempre a 200 metri da dove si sono svolti i fatti, si trova in quella zona. Chiara, ci sono aggiornamenti, ci sono notizie particolari, indicazioni che ci puoi dare da là? Raccontarci qual è il clima in questo momento? Qui è massima allerta, il piano Vigipirat contro gli attacchi terroristici è al massimo grado di allerta. A quanto pare, come avete già detto, Charb, il vignettista numero uno della rivista, è morto, e a quanto pare uno dei due poliziotti deceduti nell'attacco è morto per salvare, perché si è gettato sopra Charb e poi ha perso la vita. Qui non ci sono aggiornamenti per il momento. Si sa che i due uomini che sono entrati nella sede sono usciti, sono entrati in una macchina differente da quella con cui erano arrivati sul luogo, e si sono diretti verso il nord di Parigi, verso Port de Pantin a quanto pare, ma non sono ancora stati individuati e fermati. Qui l'atmosfera è veramente... sotto shock, tutte le persone qui sono sotto shock. Si parla dell'attacco, uno degli attacchi più gravi in Francia degli ultimi 50 anni. Tutti coloro che sono intervenuti, il presidente del Partito Comunista, sì, l'imam di Gaddafi, ti fermo, Chiara. Hanno parlato, sì. Chiara, Gigi Donelli. No, tu parlavi giustamente prima dei lupi solitari. Non dimentichiamo che appena prima di Capodanno due attacchi appunto di quelle caratteristiche a Nantes in automobile contro un mercato. Ecco, quello è quel genere. Quello a cui abbiamo assistito oggi è chiaramente qualcosa di molto diverso, che addirittura ricorda, proprio come la collega ricordava, dei precedenti. Bisogna risalire fino agli anni 60, in particolare al 1961, quando fu l'OAS, quindi in piena guerra di Algeria, erano i corpi di fatto contrari all'indipendenza, per ricordare un tipo di attacco militare. Ecco, quindi senz'altro scatenati e lupi individuali, appunto, il pericolo esiste. Quello a cui abbiamo assistito oggi è probabilmente qualcosa di molto diverso. Naturalmente. Allora, ancora notizie che arrivano, innanzitutto che, come già vi abbiamo detto, aggiornando costantemente questo terribile bilancio dell'attacco a settimana il satirico francese, bene, tutti i quattro vignettisti di Charlie Hebdo hanno perso la vita, e questa è la notizia che è arrivata poco fa. Il bilancio, come si diceva, è arrivato a 12 vittime. A proposito dell'allerta, dell'innalzamento dell'allerta per quanto riguarda tutta la regione di Parigi, vi abbiamo già detto del rafforzamento delle misure di sicurezza intorno ai giornali, vi abbiamo raccontato poco fa che anche Le Figaro, che ha la sede poco lontano, ha deciso di chiudere tutti gli accessi al giornale proprio per innalzare le misure di sicurezza ulteriormente. Si sono rafforzate le misure di sicurezza intorno a tutti i luoghi affollati, come sempre avviene in questi casi, come per esempio i grandi magazzini. Come avete sentito poco fa dal nostro viceministro all'interno Filippo Bubbico, in realtà, che è intervenuto in diretta da noi, in realtà non è prevista per il momento alcun innalzamento dell'allerta, almeno formalmente, in Italia, anche se ha parlato di un innalzamento dell'allerta sostanziale, e nemmeno ci sarà un innalzamento del livello di allerta per quanto riguarda specificatamente gli obiettivi francesi, perché l'impressione è che la questione riguardi non solamente la Francia ma un po' tutta l'Europa e il cuore dell'Europa nella fattispecie. Però, per rimanere a quello che sta succedendo in Francia, dove i fatti sono effettivamente avvenuti, arriva la notizia di pochi istanti fa che per motivi di sicurezza a Parigi è stato disposto il divieto di parcheggiare vicino alle scuole. Tutte le uscite e le attività extrascolastiche fuori dagli istituti sono sospese. Questo è quello che riferisce Itele, che è una delle televisioni che fin dall'inizio sta seguendo più intensamente tutta questa vicenda e sta dando informazioni più aggiornate. È stata la prima a dare il numero delle vittime molto elevato. Noi chiudiamo qua questa puntata, naturalmente speciale, di Effetto Giorno, dedicata in gran parte a quello che è successo a Parigi. I ringraziamenti: Filippo Aureggi in regia, Alessandro Marcotulli in assistenza e in redazione, tutta la redazione di Radio 24. Mai come oggi, naturalmente, ci fermiamo, c'è una pausa e poi c'è il giornale radio.